sensibilità non serve a niente in queste serate qua. Sembriamo hooligans. Giro tra la pista e il bar, lucidamente parlo con chi capita, ma una spallata mi fa tornare in mente. La difficoltà di parlare con la gente, i miei tentativi di vivere il presente. Da quando salgo sul palco o scappo via dal locale, salgo sul palco o scappo via dal locale.